Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Il primo contatto con la terra cirenaica dei coloni della seconda trasmigrazione sulla quarta sponda. Bengasi, dove nella notte avevano attraccato al molo i piroscafi Lombardia, Umbria e Sardegna, accoglie fraternamente le ultime 500 famiglie rimaste a bordo dopo lo sbarco del giorno precedente a Ras Hilal del primo gruppo di 135 famiglie. Autocarri erano stati concentrati nel porto per il trasporto dei nuovi coloni e delle loro masserizie. Ciao a tutte e tutti, da Olga, siete su Radio Città Fujiko e questa è Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio. Avrete capito dove vi portiamo oggi? Andiamo in Libia. Il pezzo che vi abbiamo fatto ascoltare, infatti, è tratto da un cinegiornale del 1939. Noi però, stando in Libia, facciamo un passo indietro, e precisamente 28 anni prima. Alcuni giorni dopo la dichiarazione di guerra alla Turchia, il 5 ottobre 1911, le prime truppe italiane sbarcano in Libia e dal 1896, anno della pesantissima sconfitta di Adua, che l'espansione coloniale italiana si è arrestata. Cosa spinge dunque il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti a dichiarare guerra all'impero ottomano, padrone delle province libiche? Certamente la paura di restare a bocca asciutta. Restare a bocca asciutta in un banchetto di colonialismo africane su cui siedono ormai da un secolo le altre potenze europee. Ma non solo. La politica giolittiana, fatta di pesi e contrappesi, in quell'alba degli anni 10 sta mostrando la corda. Ormai non si tratta più di accordarsi fra un piccolo gruppo di notabili. Le tensioni sociali stanno facendo emergere le ali estreme degli schieramenti politici a destra e a sinistra. Sono i nazionalisti che aprono un fuoco di fila devastante sull'Italietta grigia, tacagna e rinunciataria. Sono i socialisti rivoluzionari che tentano di scalzare l'ala riformista della guida del partito. Sono i cattolici che si affacciano alla politica dopo 50 anni di volontario esilio. Insomma, il problema di Giolitti è questo: come tenere in pugno uno scenario politico che sta cambiando a velocità vertiginosa. La risposta che elabora è molteplice: suffragio universale maschile ed altre iniziative per legare a sé i socialisti riformisti. È una guerra da dare in pasto a conservatori, nazionalisti e cattolici. Una guerra all'infedele, che piace alla Santa Sede e ne favorisce l'avvicinamento allo Stato italiano, come una specie di amarcord delle crociate. Una guerra che fa gola alla nascente aristocrazia finanziaria e industriale, che, secondo loro, avrebbe guadagnato molto e in fretta. Una guerra che potrebbe persino coniugare socialismo, nazionalismo e imperialismo, un torbido esperimento politico sintetizzato nella celebre frase di Giovanni Pascoli: la grande proletaria si è mossa. Questi fatti che descrivono sinteticamente l'inizio della guerra di Libia, cominciata 110 anni fa. Ma noi vi vogliamo raccontare due storie, una di qua e una al di là del Mediterraneo. Una bolognese, quindi vicino a noi, una del Fezzan, questa vasta regione desertica a sud della Libia. Due storie che sono una anticoloniale e una antimilitarista, accomunate dalla resistenza contro nemici interni ed esterni. Prima di raccontarvi queste storie, però, cominciamo anche il nostro pomeriggio in musica e ci andiamo a sentire una canzone di Ahmed Fakrun, che è il pioniere della musica araba moderna. Lui è libico, nato a Bengasi nel 1953. والله وين تي وين بردك مرات والله فتاتي قامل صاح النجوم الليل صاح النجوم الغيح ولا انسان رمات نام انين كنك نويتي عالشفا والصيح كنك عظيم ترى يطول سنين طاح النجوم الليل تحكي عن حطامة يا هادي تكلم من دون شي من دادي بينك وبين الله ربي يا هادي Siamo tornate sulle frequenze di Radio Città Fujiko, state ascoltando Vallun e stiamo andando in Libia per raccontarvi i 110 anni dall'inizio della guerra di Libia tra Italia e Turchia. Prima però di portarvi in Libia e di raccontarvi una storia libica, vi raccontiamo una storia che è molto molto vicina a noi. Il resto del Carlino del 4 marzo 1966 riporta un sintetico ma dettagliato articolo sulla morte dell'imolese Augusto Masetti, classe 1888, anarchico. Chi è costui? Vi raccontiamo chi è Masetti, Augusto Masetti, per noi di Vallun, perché ci siamo imbattute in questa figura 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, nel 100° anniversario della guerra di Libia, e da giovani storiche e storici ci siamo messi sulle sue tracce. Masetti ci ha portato a Bologna, nella caserma Cialdini, a Imola, nell'archivio della Federazione Anarchica Italiana. Ci ha riportato ancora a Bologna in altri archivi e, passo dopo passo, abbiamo costruito una mostra. La mostra si chiamava Masetti, l'uomo che disse no alla guerra. Il tutto grazie alla complicità del Circolo Anarchico Berneri. Una mostra che si snodava tra libri d'epoca, fonti d'archivio originali, perizie mentali su Augusto Masetti originali e stampe degli anni venti. Quella mostra ormai è un bellissimo ricordo degli anni dell'università. Ma come dimenticare questo anarchico che disse no alla guerra? Il 30 ottobre 1911 Augusto Masetti deve presentarsi alla caserma Cialdini, in via Urbana a Bologna, per rispondere al bando di leva per la Libia. La guerra è appena cominciata e lo Stato liberale ha bisogno di giovani uomini per conquistare la tanto desiderata quarta sponda. Augusto però spara un colpo di fucile contro il colonnello Stroppa e lo ferisce. È chiaramente un gesto eclatante. Durante la perquisizione gli viene trovato in tasca un volantino antimilitarista che invita i soldati a mirare verso bersagli diversi da quelli indicati dagli ufficiali. Interrogato, si professa anarchico e rivoluzionario. In sostegno a Masetti si costituisce subito il Comitato Nazionale Pro Masetti, di cui il bolognese e anarchico Armando Borghi ne è segretario. In questo comitato si compie la saldatura tra antimilitarismo anarchico, socialista e repubblicano. Ma cosa succede ad Augusto? Visto il clima che si andava creando, lo Stato teme di farne un martire se lo condannerà a morte. La pena prevista dal codice sarebbe la fucilazione alla schiena. Per cui, tramite la perizia di 2 psichiatri nominati dal Tribunale di Venezia, Masetti viene fatto passare per un soggetto degenerato, incapace di intendere di volere. È ovvio che Augusto sa cosa ha fatto e le perizie sono create ad hoc per annichilirlo. Infatti viene rinchiuso in un manicomio toscano. In seguito, il sempre attivo comitato Pro Masetti riuscirà a farlo trasferire all'ospedale psichiatrico di Imola e dal 1914 sarà un andirivieni tra vari manicomi e poi il confino negli anni 30. Ormai però la pietra era stata scagliata. Il movimento antimilitarista cominciava la sua marcia. Se per gli italiani ci sono state 2 fasi del colonialismo in Libia, ovvero un colonialismo liberale e uno fascista, per gli abitanti di Cirenaica e Tripolitania l'occupazione è solo una e dura quasi 30 anni. Il simbolo della resistenza libica si chiama Omar al-Mukhtar, soprannominato il leone del deserto, l'uomo che per 20 anni mette sotto scacco l'esercito, considerato a ragione eroe nazionale, è morto impiccato dai fascisti esattamente 90 anni fa. Ma se la figura di al-Mukhtar è abbastanza conosciuta, anche in Italia, poco si sa della resistenza femminile, pochissimo si sa delle donne che ne hanno preso parte. Dobbiamo allora prendere in mano un bel libro, anzi un quaderno fucsia, del collettivo Resistenza in Cirenaica, a proposito, uscito all'inizio degli anni 20 e purtroppo passato un po' in sordina a causa della pandemia e del lockdown. E scopriamo qui in queste pagine una bellissima storia scritta da Michela Pusterla e Ahmed Badr, in cui si racconta di Salima al-Makis, della tribù Nawail, seminomadi della regione del Fezzan. All'inizio del 1912 la tribù si muove verso la Cirenaica per unirsi alla resistenza. Tra di loro c'è Salima. Di solito le donne sono nelle retrovie della resistenza, incitano gli uomini, cantano, distribuiscono cibo, ma forse questo ruolo per Salima è troppo stretto, gli va troppo stretto, e allora indossa vesti maschili, si rasa i capelli e si unisce alla resistenza dei Mujahideen. Salima non passa inosservata. Ci sono resoconti di giornalisti stranieri inviati sul campo per seguire la guerra italo-turca, che parlano della Giovanna d'Arco degli Arabi e dicono che lei è tremenda come una divinità africana della guerra. A Salima chiaramente dei giornalisti occidentali non importa nulla. Sembra infatti che abbia pronunciato queste parole: «Io non sono Giovanna d'Arco, io sono Salima al-Makus e questa occupazione deve finire». Per aiutarci a capire ancora meglio la questione Libia, abbiamo chiamato Sofia Bacchini, una ricercatrice di un posto amico di Van Loon, il Centro Studi Movimenti Parma, che con l'occasione salutiamo anche. Sofia ci aiuta a fare un po' il quadro su alcuni punti anche dell'attualità e in particolare su quello che è la memoria della guerra in Libia. Benvenuta Sofia ai microfoni di Radio Città Fujiko su 103.1, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, ciao a tutte e tutti. Bene, ti abbiamo chiamata per aiutarci a contestualizzare la guerra in Libia nel campo della memoria, che è uno degli elementi, degli argomenti che a Van Loon piace moltissimo. Quindi la domanda è: esiste una memoria della guerra in Libia? Come si è articolata anche nel recente passato la questione guerra in Libia? Raccontaci un po'. Beh, dunque, sicuramente la questione della memoria legata alla guerra in Libia è simile a quella che purtroppo pervade la società italiana rispetto a tutto quello che è stato il proprio passato coloniale, di cui la Libia era una sola delle colonie, oltre a quelle chiaramente in Africa orientale. E vediamo che l'atteggiamento è sempre stato quello di un oscillamento tra due poli, quindi da una parte, soprattutto nel dibattito subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quello di un completo oblio rispetto a quella che era stata appunto la storia coloniale e le responsabilità che ha avuto chiaramente l'Italia nei confronti della storia di questi paesi, di queste popolazioni, ma anche nei confronti della storia nazionale, che è stata poi anche in parte riscritta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'altro polo è quello di un atteggiamento assolutamente paternalista nei confronti delle ex colonie, come ad esempio possiamo citare la vicenda dell'AFIS nei confronti della Somalia, quindi quando nel 50 le Nazioni Unite diedero appunto la Somalia, ridiedero in un certo senso la Somalia all'Italia per accompagnarla verso il processo di decolonizzazione. Quindi queste sono sempre state appunto un po' le due tendenze maggioritarie con cui ripensare a se stessi e ripensare a se stessi in merito al passato coloniale. Nel campo, così dire, degli studi accademici o meno, ci sono stati grandi storici come Del Boca in primis, Nicola Labanca o Giorgio Rocià, che hanno aperto per la prima volta gli archivi della storia coloniale italiana e ci hanno riportato questo tipo di dibattito nella società contemporanea. Dall'altra parte ci sono stati anche altri episodi, non solo legati chiaramente al mondo accademico, che hanno negli anni riportato un po' alla ribalta questo discorso. Una è stata ad esempio la polemica relativa al famoso film Al Colossal, il leone del deserto, di produzione libica, nel 1981, quindi chiaramente sotto il governo di Gheddafi. Leone del deserto, appunto, questo film girato tra l'altro tra Hollywood, Roma e Tripoli, dove viene rappresentata un'altra versione, se vogliamo, o parzialmente diversa, dell'occupazione italiana in Libia. Insomma, ci ricordiamo, penso tutti, Anthony Quinn nei panni di Omar al-Mukhtar. E un film questo che ad esempio fu censurato dall'Italia, fu censurato perché è considerato lesivo nei confronti delle immagini delle forze dell'ordine italiane, ad esempio. E badate bene, questo film censurato tuttora sotto censura non fu mai trasmesso dalla televisione pubblica italiana, solamente nel 2009 Sky, quindi un'emittente privata, organizzò alcune proiezioni. E il 2009 lo ricordiamo appunto perché era anche l'anno della prima visita ufficiale in Italia del colonnello Gheddafi, che si presentò all'aeroporto di Roma con appuntata sulla giacca la foto proprio dell'arresto di Omar al-Mukhtar, del grande partigiano libico, accompagnato tra l'altro dal figlio di Omar al-Mukhtar, ormai chiaramente anziano. E in quell'occasione vediamo nuovamente quei due poli di oscillamento dell'atteggiamento italiano, perché ci ricordiamo insomma le dichiarazioni di Berlusconi con cui in una forma abbastanza improvvisata e sbrigativa si faceva una sorta di ammenda dell'Italia nei confronti della Libia, quindi una sorta di scuse pubbliche per le violenze che sono state perpetrate durante l'occupazione coloniale, anche se chiaramente sappiamo benissimo che l'occasione di quella visita non fosse tanto questo, rimettere in discussione il passato coloniale, ma ovviamente gli accordi economici che il governo Berlusconi aveva reiterato appunto con il governo di Gheddafi. Tuttavia mi piaceva anche citare altre forme di messa in discussione, diciamo così, e di analisi e di studio di quello che è stato la guerra in Libia e il rapporto che tuttora ci portiamo nella nostra società. Ad esempio dei lavori più specifici, come quello di Beatrice Falcucci sul Museo di Storia Naturale di Tripoli, oppure ancora della mostra fotodocumentaria curata da Costantino Di Sante sull'occupazione italiana della Libia. Una mostra tra l'altro che è stata poi anche inaugurata nella stessa Tripoli. E secondo me questi sono lavori più specifici che però possono aiutarci a ricomporre un puzzle molto complesso, chiaramente, però partire anche dai suoi elementi costituenti, che hanno a che fare sì chiaramente con i processi storici, diciamo, più grandi, ma anche con delle configurazioni poi culturali, come possono essere appunto i musei o istituzioni di questo tipo, che hanno perpetrato anche dopo appunto la fine dell'effettiva occupazione coloniale, quella che è stata la memoria di questa occupazione e della sua violenza. E, in ultimo vorrei anche però citare il lavoro di Francesca Mannocchi, che non è una storica, è una giornalista, e che tuttavia però negli anni, con i suoi ricchissimi reportage dalla Libia, oppure anche con i libri appunto che ha scritto, secondo me ha avuto e ha tuttora una forza importante nel raccontare, soprattutto nel tessere questi legami, che appunto, a partire dalla contemporaneità, dal disastro insomma della situazione libica attuale, è in grado di ricucire quei tagli appunto creati anche dall'incontro coloniale, e quindi dare una nuova, a mio avviso, storicità a quello che è stato questo fenomeno, e soprattutto alle ricadute appunto che sono urgenti e drammatiche anche nel nostro presente, che però chiaramente senza questo tipo di operazione culturale non sono in grado di essere colte in tutta nella loro dimensione. No, infatti grazie per questo intervento, perché appunto ci hai ricordato come il passato coloniale ha preso delle vie all'interno della nostra memoria, della nostra cultura, della nostra attualità, del nostro mondo anche letterario, è ovunque ancora deve essere rimaneggiato, pensato, è molto più presente di quanto pensiamo. Forse dovremmo avere la capacità di riportarlo ancora più in vista. Infatti grazie per questo excursus che davvero ha toccato tanti elementi e ci aiuta davvero a capire quanto è ancora complesso fare i conti col passato coloniale, non per forza in un senso neanche di i colpevoli, responsabili, ma anche capire quanto semplicemente è presente, quanto ci ha formato e quanto ancora dobbiamo farne i conti. Ti ringrazio, purtroppo il tempo è scaduto e ci sentiamo presto e ancora grazie. Grazie a voi di nuovo, ciao. A presto. Ciao. Ciao. Who's your mind?